Benvenuti a questo nuovo numero di Indie Radio. In questa puntata ci occuperemo di diverse questioni relative al lavoro che manca, al lavoro scarsamente retribuito, ma parleremo ancora di nucleare, quindi di referendum, e ci occuperemo di quello che è successo a Cosenza sotto le carceri per un sit-in in merito a una protesta partita comunque dalle persone che sono rinchiuse in varie carceri italiane. Parleremo dunque di questo e di molto altro. Continuate a seguirci su Transizione di fase. Il 4 giugno scorso a Cosenza si è svolto un sit-in di solidarietà sotto la casa circondariale della città. E quindi Media Calabria infatti viene pubblicato un breve video girato in quell'occasione e si ricorda quanto segue. Un gruppo di attivisti e solidari della Cosenza anticarceraria si è trovato fuori le mura del carcere di Via Popilia per portare solidarietà ai detenuti che in tutta Italia da giorni protestano contro il sovraffollamento delle carceri e contro le condizioni inumane che ogni giorno sono costretti a vivere. Proprio ieri, durante il presidio, abbiamo saputo che ai detenuti sono state tolte finanche le stoviglie con le quali battevano simbolicamente sulle sbarre a mo' di protesta. Ribadiamo ancora una volta, con la rabbia e la determinazione che sempre ci accompagnano, che né il carcere né la repressione sono la soluzione per poter cambiare la società. Il 90% dei detenuti è rinchiuso per reati minori, come piccoli furti e possesso di stupefacenti. Ogni giorno, in tutto il mondo, all'interno dei carceri avvengono suicidi, omicidi, e le carceri, così come i CIE, dove si trovano rinchiusi i nostri fratelli migranti, sono luoghi di tortura ed emarginazione, scuole di illegalità. E per questo vanno chiusi subito. La firma è quella di Cosenza contro il carcere. E a proposito di carcere, leggiamo quanto pubblicato su Indipendente Lombardia, dove si parla ancora una volta dell'uccisione di Aldrovani. Il PG in appello infatti non fa nessuno sconto, i poliziotti uccisero un ragazzo indifeso. Il PG nella sua requisitoria chiede la conferma della pena e che non vengano concesse le attenuanti generiche. Inoltre parla di dolo eventuale, un'accusa che non può essere applicata vista che in primo grado non venne contestata, ma che inchioda comunque moralmente i quattro poliziotti. nessuna riduzione di pena dunque per i poliziotti accusati di aver ucciso il 25 settembre 2005 Federico Aldrovani, chiamati a Ferrari in via dell'Ippodromo perché il ragazzo sarebbe stato in stato di agitazione. Quando arrivarono sul luogo ne seguì probabilmente una colluttazione, arrivò una seconda pattuglia al termine della quale, dopo una serie di manganellate, il ragazzo morì. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Bologna, Bambace, chiede la conferma dunque della condanna in primo grado per gli agenti di polizia, 3 anni e mezzo, e chiede che non vengano concesse le attenuanti generiche perché non avrebbero avvisato nei comportamenti degli imputati elementi che le giustificassero. In particolare non ha ravvisato nessun atteggiamento di autocritica e ha ricordato come la realtà venne alterata fin dalla fase immediatamente successiva all'omicidio del ragazzo. In fase conclusiva della requisitoria, il PG si è concentrato sulla sindrome di delirio sostenuta dalla difesa dei poliziotti. Non c'è alcun riscontro degli atti a questa ipotesi. Mancano atti di autolesionismo del ragazzo, mancano evidenze medico-scientifiche e non c'erano patologie in atto nel ragazzo. E soprattutto, Aldrovani non era un tossicodipendente. Più che colpa, si potrebbe parlare forse di dolo eventuale, di aver accettato che il proprio comportamento violento e il ritardo nella chiamata di un'ambulanza abbia provocato la morte di un ragazzo di 18 anni. Conclude così la sua requisitoria Miranda Bambace. Il procuratore generale, come abbiamo detto, non fa sconti a Enzo Pontani, Paolo Forlani, Monica Segatto e Luca Pollastri, i 4 poliziotti condannati in primo grado a 3 anni e mezzo per l'omicidio colposo di Federico. Nell'ultima udienza, prima di quella di stamani, dove il PG ha tratto le conclusioni, l'atteso confronto tra i 2 esperti, che doveva dirimere i dubbi sulle foto del cuore di Federico, passa quasi in secondo piano. L'anatomopatologo dell'Università di Padova, Gaetano Tiene, rimane nelle sue posizioni. Il giovane è morto per compressione meccanica del fascio di His, sorta di valvola elettrica del miocardio. Al consulente di parte, il cardiologo Claudio Rapezzi, non rimane che paventare la possibilità che quella foto mostri invece cose diverse, bande di contrattura che nasconderebbero un decesso da Excited Delirium Syndrome, un modo tutto accademico per definire la morte da crepacuore. Dopo il faccia a faccia si è passati subito alla fase della discussione e, come detto, il PG non ha fatto un passo indietro rispetto alle accuse di primo grado, anzi, forse un in avanti, avanzando l'ipotesi di dolo eventuale, interpretazione che ricorda le parole della sentenza di primo grado in cui il giudice Caruso parlava di fattispecie tipica dell'omicidio preterintenzionale, in riferimento ai fatti del 25 settembre 2005. Ma oggi, in appello, si parla di colpa e di capo di imputazione, salvo revisione del processo, non può cambiare. L'enfasi serve però alla Bambace per ricordare alla Corte che gli elementi probatori raccolti sono tali e tanti che non possono non far propendere per la loro colpevolezza. A partire dai danni subiti all'auto di Alfa 3, le fotografie della scientifica svolte su indicazione degli stessi imputati, sottolinea la PM, non rilevano nessuna ammaccatura sul cofano compatibile con il balzo di cui si favoleggia che avrebbe fatto nel tentativo di colpirli. E un ragazzo alto 1,81 m qualche traccia avrebbe lasciato. Viene poi la tardiva chiamata all'ambulanza. Allora arrivo, i sanitari troveranno i 4 agenti attorno al corpo di Federico, immobile, a terra, con le manette dietro la schiena. E c'è poi la testimonianza oculare di Anna Maria Seghe, camerunense residente nella via. Ho molta stima di questa donna, sottolinea la PM, che ha avuto il coraggio di farsi avanti, a differenza di molti suoi vicini, che pure hanno sentito la Segatto dire «Attenti, ci sono delle luci accese». La Seghe vede inoltre i 4 manganelli, di cui 2 si rompono. C'è poi la famosa frase registrata di Pontani, che al centralinista dice «Lo abbiamo bastonato di brutto». Non importa a questo punto, prosegue la PM, sottolineare che l'imputato aggiunge «bastonato per mezz'ora». In lui c'è la consapevolezza dell'aggressione. E poi le ferite, ben 54, sul corpo di Federico, tutte compatibili con l'uso dei manganelli e con i calci che Pollastri, visto dalle teste, muoversi avanti e indietro. E poi le ferite, ben 54, sul corpo di Federico, tutte compatibili con l'uso dei manganelli e con i calci che Pollastri, visto dalla testa e muoversi avanti e indietro tra il giovane disteso a terra e l'auto di pattuglia, gli avrebbe sferrato. Viene poi l'ammanettamento prolungato, nonostante poco prima, come sentito dai testimoni, il ragazzo chiedesse aiuto. Adesso ti aiutiamo noi, fu la risposta della Segatto, ricorda il procuratore. Chiedeva aiuto a coloro che lo avevano aggredito, bloccato e mantenuto in una posizione che quasi manualmente di polizia. Che qualsiasi manuale di polizia sconsiglia se non per il tempo necessario al cessare della resistenza. In attesa di sentire le requisitorie della difesa, l'accusa si congeda con una domanda. Si può parlare con onestà intellettuale e dire che quattro persone che affrontano in quel modo un soggetto inerme possono essere assolti? Sempre parlando di nucleare e quindi ricordando l'appuntamento del 12-13 giugno per i quattro referendum sull'acqua, sul nucleare e sul legittimo impedimento, su Inimedia Lombardia viene pubblicato un articolo dove si parla di quelli che saranno i siti dove verranno create le centrali nucleari se appunto il referendum non bloccherà la creazione degli stessi. Dunque, Enel ha annunciato alla polizia il furto negli uffici romani dell'area nucleare a Tor di Quinto di un computer contenente documenti aziendali relativi a studi e analisi preliminari privi di risvolti operativi sulle caratteristiche di siti per impianti nucleari in Italia e all'estero. Il furto del PC, denuncia l'Enel, avviene a pochi giorni dalla tornata referendaria. Ma cosa conteneva quel PC? Quali informazioni? Intanto, eccovi i primi, ma non ultimi, siti che dovrebbero ospitare centrali e depositi di scorie radioattive se il 12-13 giugno non dovesse passare il referendum. Un vecchio elenco del CNEN ne individuava a regime circa 45, ma secondo i Verdi ed Enel, incaricati del progetto nucleare, i primi sono questi. Trino Vercellese, Caorso in Lombardia, una centrale fra Mantova e Cremona, lungo l'asta pluviale del Po, Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Scarlino, in provincia di Grosseto, Montalto di Castro, Bordo Sabotino, a Latina, Oristano, Termoli, Mola di Bari, Scanzano Ionico, a Matera, Palma di Montechiaro e un deposito di scorie a Garigliano, cioè fra Caserta e Latina. Questo è invece il vecchio ma sempre attuale elenco del CNEN. In Piemonte, 1. La zona lungo il Po, da Trina a nord di Chivasso, cioè a Vercelli. 2. La zona intorno alla Dora Baltea, a sud di Ivrea, cioè a Biella. In Lombardia, la zona a nord di Voghera lungo il Po a Pavia. Poi la zona a sud di Mantova lungo il Po. Ed ancora la zona a sud di Cremona lungo il Po. Invece il Veneto, si parla della zona sud di Legnano, Cadice e Po, cioè a Rovigo, la zona del delta del Po, sempre a Rovigo, la zona della foce del Piave a Venezia, così come a Venezia, e la zona costiera al confine con il Friuli. E quindi passiamo al Friuli Venezia Giulia, dove si parla della zona costiera al confine con il Veneto, Udine, la zona lungo il tagliamento tra Spilimbergo e Latisana, tra Udine e Pordenone, mentre in Emilia Romagna si parla della zona costiera a nord, tra Ferrara e Ravenna, e la meridionale fino a Rimini, poi la zona a nord di Fidenza tra Taro e Po, cioè a Parma 2. Per quanto riguarda la Toscana, ricordiamo che si parla di Isola di Pianosa a Livorno, la zona costiera a nord di Piombino fino a Cecina, sempre Livorno, la zona sud di Piombino fino a Follonica, Grosseto, la zona costiera di Grosseto e la zona nord e a sud del Monte Argentario, sempre Grosseto. E nel Lazio, la zona costiera di Montalto di Castro, Viterbo, l'area di confluenza tra Nera e Tevere, tra Magliano Sabina e Orte, sempre Viterbo, e l'area costiera di Borgo Sabotino a Latina. In Campania invece Foce del Garigliano a Caserta e Foce del Sele a Salerno. Invece in Calabria si parla dell'area costiera di Sibari a Cosenza, la zona costiera tra il fiume Nicà e la città di Cosenza, la zona costiera ionica vicino alla foce del Metro Crotone e a nord di Crotone, Marina di Strongoli, Torre Melissa, Contrada Cangemi, Tronca. E poi la zona costiera ionica in corrispondenza di Sellia Marina tra il fiume Simeri e il fiume Allì a Catanzaro. In Molise invece si parla della zona costiera meridionale alla foce del Bifermo, Termoli. In Puglia invece la zona costiera al confine con la Basilicata a Taranto, zona costiera a nord del promontorio del Gargano in prossimità di Lesina, Foggia, zona costiera del Golfo di Manfredonia, sempre Foggia. E per Lecce invece si parla della zona costiera ionica a nord di Porto Cesareo, la zona costiera ionica a sud di Gallipoli, la zona costiera adriatica a nord di Otranto, dove vi sono comunque dei vincoli naturalistici, e ancora la zona costiera a sud di Brindisi, dove vi sono anche qui vincoli naturalistici, mentre in Brindisi, nella località vicino Brindisi, si parla della zona costiera in corrispondenza di Ostuni. Per quanto riguarda la Basilicata si parla di tutta la costiera ionica della regione, mentre in Sardegna, foce del fiume Frumentosa, Cagliari, costa orientale a sud del Golfo di Orosei, a Nuoro, e sempre a Nuoro, costa orientale a nord del Golfo di Orosei, mentre zona costiera sud tra Pula e Santa Margherita di Pula, a Cagliari, e costa occidentale, zona costiera a nord e sud del Golfo di Oristano. In Sicilia invece si parla della zona costiera intorno al comune di Licata, Agrigento, la zona costiera tra Marina di Ragusa e Torre di Mezzo, Ragusa, la zona costiera intorno a Gela, Caltanissetta, e la zona costiera sud di Mazara del Vallo, a Trapani. Proprio perché crediamo che l'antifascismo sia sempre un elemento importante della nostra società, vogliamo leggere un comunicato comparso su Indymedia Lombardia che parla degli arresti a seguito dell'attacco a Casa Pound a Cuneo. Il 26 febbraio a Cuneo l'apertura della sede di Casa Pound provoca proteste e scontri. Sostenitrice di politiche razziste, omofobe, nazionaliste e xenofobe, Casa Pound dal 2003 è presente sul territorio italiano, sempre ben finanziata dalle lobby politico-mafiose della destra o dalle istituzioni, come grazie ai contributi della Regione Lombardia a un recente convegno. Le politiche a sfondo sociale che promuove, mutuo sociale, occupazione di case, sostegno alle madri lavoratrici, sono funzionali al clima di guerra e di paura in cui viviamo. I nemici sono gli stranieri, i più poveri, i diversi che cercano di portarci via quel misero benessere che possediamo. Una ricchezza che affonda le sue radici da sempre nella diseguaglianza e nello sfruttamento di uomini e risorse che si è fatta intollerabile. Che molti si mobilitino contro la presenza di Casa Pound nelle proprie città, come spesso è accaduto, non può che farci gioire che la solerzia di sbirri e magistrati colpisca, come con l'azione repressiva di venerdì 27 maggio 2011, tutti coloro i quali da tempo si mobilitano contro le infamità di questi tempi, ne fanno pratica quotidiana, contribuiscono alle lotte in corso in diversi ambiti, ci fa capire bene che si è colpito nel segno. A Luca, Fabio, Dario, Marco, Luca, Zaccaria, Francesco, tutta la nostra vicinanza e solidarietà. A Guido, sfuggito alle manette e purtroppo lontano dalle lotte che ha sempre sostenuto e abbracciato, il nostro vivo pensiero. Perché tutti tornino presto liberi, perché la lotta continua. E il comunicato è a firma degli anarchici del Canavese. Dal novembre del 2010 180 operai della cooperativa GFE di Campeggine, Reggio Emilia, sono in lotta per il mantenimento del posto di lavoro e per il miglioramento delle condizioni di lavoro stesse. La GFE è una delle tante cooperative emiliane che sono cooperative solo di nome. Dietro il paravento della cooperazione si nasconde una realtà di miseria, sfruttamento, non applicazione dei contratti nazionali, ricatto alle maestranze, salari bassissimi. Il nome di cooperativa serve solo ad ottenere sgravi fiscali a tutto vantaggio delle dirigenze e ad entrare nel circuito delle associazioni come Lega Coop o Confcooperative. Questa cooperativa ha come unico cliente la SNAT, azienda facente parte del gruppo Fagioli, fornitore di piattaforme logistiche e trasporti eccezionali. In pratica i lavoratori della GFE, tutti immigrati indiani e pakistani, lavorano esclusivamente per la SNAT, prendono ordini da caporeparto della SNAT, ma permettono alla SNAT di spendere molto meno. Parliamo di salari che oscillano fra i 3,50 e i 5 euro orari, di quello che dovrebbero fare con dei diretti dipendenti alla dirintendenza della cooperativa, lucrante ampiamente. Ma andiamo con ordine nel ricostruire le principali fasi di questa protesta che sta diventando un caso politico difficilmente gestibile nella pacifica provincia reggiana. La vicenda era cominciata a luglio del 2010 con uno sciopero dei lavoratori che chiedevano l'applicazione del contratto nazionale del settore trasporti dentro la cooperativa. Si apriva così una vertenza con degli sviluppi impetuosi. A dicembre 2010 la SNAT decideva il contratto con la GFE perché i costi in seguito all'applicazione del contratto nazionale diventavano troppo alti. Gli operai venivano informati della cosa via SMS. La GFE veniva sciolta e venivano create due nuove cooperative, Emilux e Locosjab, in cui confluivano i soci che accettavano un contratto con meno garanzie. Ovviamente, a prescindere in tutto e a guadagnarci, rimanevano i soliti noti, ovvero l'ex presidente della GFE e alcuni suoi stretti collaboratori insieme alla dirigenza della SNAT. Ma davanti a questo ennesimo sopruso, i lavoratori della cooperativa si ribellavano avviando a dicembre un presidio permanente davanti ai cancelli della SNAT, supportati da una parte della CGIL e da altre parti del movimento reggiano. Il sindacato decide di richiedere al tribunale l'applicazione della procedura d'urgenza per il reintegro dei lavoratori all'interno dell'azienda, procedura che però in marzo veniva respinta dal Tribunale. I tempi per una procedura ordinaria, considerando i tempi della giustizia civile, inclusi i ricorsi, sarebbero stati di anni e quindi inaccettabili per i lavoratori, e che si trovavano nella situazione di essere senza entrate economiche, dato che anche la cassa integrazione viene spesso e volentieri erogata a sprazzi. Nel frattempo le istituzioni politiche reggiane, comuni e provincia, continuavano allegramente a latitare, nonostante l'aggravarsi della situazione. Ma si sa che i lavoratori immigrati non votano e quindi ha poco senso sostenerli. In aprile, la situazione per gli operai in lotta appare ormai disperata. Stremati dalla mancanza di entrate economiche, diverse famiglie a rischio sfratto o tagli delle utenze di base, procedura d'urgenza bloccata, cassa integrazione che non arriva, scarse possibilità di vincere la lotta, dato l'immobilismo della CGIL. In questo clima matura la decisione estrema di proclamare uno sciopero della fame e della sete a oltranza. Lo sciopero viene proclamato senza avvertire prima il sindacato e questo è indicativo della fiducia che i lavoratori pongono nella CGIL. Appena adottata questa misura estrema, la classe politica locale si sveglia improvvisamente. Il sindaco di Campeggine si presenta al presidio assicurando che farà il possibile per avviare le trattative e pigliandosi gli insulti dei lavoratori. Nei giorni successivi diversi lavoratori vengono ricoverati a causa di malori dovuti alla disidratazione. Venerdì 22 aprile viene indetto un incontro presso la provincia di Reggio Emilia, sotto cui si svolge un presidio di solidarietà con i lavoratori indetto dal comitato No Pacchetto Sicurezza, in cui avviene un vero e proprio colpo di scena. La SNAT e le due cooperative cedono accettando di assumere in diversi spezzoni 180 lavoratori rimasti esclusi, applicando il contratto nazionale. Nel frattempo la regione si fa carico di pagare la cassa integrazione arretrata. Ma dei padroni bisogna sempre diffidare. Gli accordi, per quanto scritti, firmati e controfirmati, non vengono rispettati. Le cooperative e la SNAT nicchiano, la regione non paga la cassa. La SNAT, anzi, per prendere ulteriore tempo, fa firmare tramite pressioni e ricatti a più di 400 operai delle cooperative che lavorano all'interno dell'azienda un documento in cui si sostiene che la SNAT ha agito correttamente. Questo documento poi viene depositato in tribunale e viene chiesto che venga usato come prova all'interno delle udienze della causa civile. Dato che il tribunale deve valutare la pertinenza di tale documento per metterlo agli atti, l'udienza viene rinviata dal 5 al 23 giugno. Le casse integrazioni arretrate, gennaio e febbraio, arrivano solo il 5 maggio. Guarda caso, in coincidenza del nuovo incontro in provincia tra le parti. In questo incontro, seguito da vicino da un folto presidio di lavoratori e solidali, le carte vengono sparigliate del tutto. Non più assunzione dentro le cooperative già esistenti, ma formazione ex novo di una nuova cooperativa composta dai 185 lavoratori in mobilitazione, a cui la SNAT si impegna a fornire lavoro per un tot di anni. Inutile dire come questa proposta sia indecente. Niente impedirebbe alla SNAT di non rinnovare il contratto alla scadenza o di cambiare ragione sociale tra qualche mese invalidando gli accordi. L'accordo non viene accettato dai rappresentanti degli operai e la mobilitazione procede. Nel frattempo le varie iniziative di solidarietà raggiungono raccolgono fondi e generi di necessità che vengono mano a mano consegnati ai lavoratori. Questa vicenda mostra quanto il tanto decantato modello emiliano, basato sulle cooperative, sia ormai marcio. L'universo cooperativo è parte integrante e preponderante del sistema di potere politico ed economico della regione. Tenendo in mano diversi settori fondamentali, buona parte dell'edilizia, la grande distribuzione, i servizi alla persona, parte del sistema creditizio assicurativo, servizi logistici e lavoro interinale. È un sistema che della cooperazione delle origini ha conservato ben poco e dove i soci lavoratori hanno ben poco peso nelle decisioni affidate a gruppi ristretti di potere che spesso sono trasversali alla diversa COP. Un sistema prettamente funzionale alle logiche di profitto e di sfruttamento e per di più con un regime fiscale favorevole. È un sistema che viene spesso presentato dal PD come alternativo alla barbarie dell'impresa privata, ma che in realtà è identico ad esso, tranne che per la denominazione delle imprese. La lotta degli operai della GFE continua nel silenzio assordante delle istituzioni locali che amano riempirsi la bocca di parole quali solidarietà e partecipazione, ma che alla prova dei fatti dimostrano di essere nient'altro che dei vili profittatori, pronti a banchettare sulla ricattabilità dei lavoratori, in questo caso svantaggiati dall'essere immigrati, e quindi non solo non cooptabili dietro il sistema democratico clientelare delle elezioni e di conseguenza non appetibili per i vari politicanti, ma anche dall'aver permesso il soggiorno legato al lavoro. E questo articolo apparso su Umanità Nova a firma Lorcon, no, non faccio così dice. E per chiunque voglia dare un contributo solidale alla lotta, ricordiamo il conto corrente IBAN IT 94 O 05387 128022.